Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Non intendo intrattenere i lettori con un resoconto della mia carriera di giocatore professionista, come non l'ho fatto con gli aneddoti della mia vita militare. Di racconti simili ne ho abbastanza da riempire interi volumi, solo che lo volessi. Ma a questo ritmo mi occorrerebbero anni per condurre a termine la mia esposizione e chissà in quale momento potrebbe giungere l'ordine di fermarmi. Ho la gotta, i reumatismi, i calcoli e il fegato in disordine. Porto sul corpo due o tre ferite che di tanto in tanto si riaprono e mi danno dei dolori intollerabili. E ci sono 100 altri segni del mio cedimento. Sono questi gli effetti del tempo, della malattia e della vita sregolata su una delle costituzioni più robuste, uno dei corpi più splendidi che il mondo abbia mai visto. Ah, non soffrivo di nessuna di queste magagne nell'anno 1766, quando in tutta Europa non c'era uomo più allegro e brioso, più ricco di qualità e talenti del giovane Redmond Barry. Prima del tradimento di quel farabutto di Pippi, avevo visitato molte tra le più splendide corti d'Europa, specialmente le più piccole, dove il gioco era protetto e i professori di quella scienza erano sempre benvenuti. Eravamo particolarmente ben accolti nei principati ecclesiastici del Reno. Non ho mai visto corti più divertenti e raffinate di quelle degli elettori di Treviri e Colonia, dove c'era anche più splendore e allegria che a Vienna, per non parlare di quella maledetta corte caserma di Berlino. La corte dell'arciduchessa e governatrice dei Paesi Bassi era anch'essa un luogo di prima scelta per noi cavalieri del bussolotto e valorosi devoti della fortuna, mentre nella micragnosa Repubblica delle Province Unite e nella miserabile Repubblica Svizzera era impossibile per un gentiluomo guadagnarsi da vivere senza fastidi. Dopo la nostra disavventura di Mannheim, mio zio e io ci dirigemmo verso il Ducato che io qui chiamerò di Baviera. Il lettore può riconoscere il luogo abbastanza facilmente, ma io preferisco non stampare a chiare lettere i nomi di alcuni personaggi illustri con cui ebbi a che fare là, quando presi parte con loro a un'avventura molto strana e molto tragica. Non c'era corte in Europa dove gli stranieri fossero più benvenuti che a quella del nobile duca di Baviera. E in nessun'altra si ricercava più avidamente il piacere, e in nessun'altra se ne godeva con tanto fasto. Il principe non risiedeva nella sua capitale. Imitando in tutto e per tutto il cerimoniale della corte di Versailles, si era costruito un magnifico palazzo a poche leghe dalla capitale, e attorno al palazzo una superba cittadina per l'aristocrazia, abitata esclusivamente dai nobili e dai funzionari della sua sontuosa corte. Naturalmente il popolo veniva spremuto quasi fino all'osso per mantenere tutto questo lusso, perché i domini di Sua Altezza erano piccoli, e così, saggiamente, lui viveva in una sorta di splendido isolamento. Mostrava di rado il suo volto nella capitale, e gli unici volti che vedeva erano quelli dei suoi fedeli domestici e funzionari. Il palazzo e i giardini di Ludwigslust riproducevano scrupolosamente il modello francese. Due volte alla settimana c'erano ricevimenti a corte e il ballo di gran gala due volte al mese. C'era il miglior teatro dell'opera al di fuori della Francia e un balletto che non aveva rivali in splendore. Sua Altezza, grande appassionato di musica e danza, lo finanziava con somme prodigiose. Può darsi che sia perché allora ero molto giovane, ma mi sembra di non avere mai visto una adunata di luminose bellezze simile a quella che figurava là sul palcoscenico del teatro di corte, nei grandiosi balletti mitologici che andavano di moda allora, quando si vedeva Marte in parrucca e scarpette col tacco rosso e Venere con le pezzuole di seta nera e la crinolina. Dicono che quei costumi fossero anacronistici, e infatti oggi se ne usano altri. Ma io personalmente non ho mai visto una Venere più graziosa di Coralie, che era la prima ballerina, e non trovavo alcun difetto nelle ninfe del seguito, e neppure nei loro strascichi, nelle falde e nella cipria. Questi spettacoli d'opera andavano in scena due volte la settimana. Dopodiché qualche grande ufficiale della corte offriva una serata e poi una splendida cena, e il bussolotto crepitava dappertutto e tutti quanti giocavano. Ho visto preparare nella grande galleria di Ludwigstadt 70 tavoli da gioco oltre il banco del faraone, dove il duca in persona si compiaceva di venire a giocare e vinceva o perdeva con maestà veramente regale. È qui, dunque, che arrivammo dopo l'incidente di Mannheim. I nobili della corte furono tanto cortesi da dirci che la nostra reputazione ci aveva preceduti, e i due gentiluomini irlandesi trovarono subito buona accoglienza. La primissima notte a corte perdemmo 740 dei nostri 800 luigi. La sera dopo, al tavolo del maresciallo di corte, li riguadagnai insieme ad altri 1300. Potete star certi che non facemmo sapere a nessuno la prima sera quanto fossimo vicini alla rovina. Al contrario, mi guadagnai le simpatie di tutti con il mio modo spensierato di perdere al gioco, e il ministro delle finanze in persona accettò una cambiale di 400 ducati. Quella stessa cambiale la vinsi a Sua Eccellenza l'indomani insieme a una considerevole somma in contanti. In quella nobile corte tutti erano giocatori. Nelle anticamere del duca vedevi i lacchè affaccendarsi con i loro mazzi di carte sudice. Scorgevi i cocchieri e i portantini giocare in cortile, mentre subito sopra, nei saloni del piano nobile, stavano puntando i loro padroni. Ho sentito dire che perfino le sguattere e i lavapiatti avevano un loro banco, dove uno di loro, un pasticcere italiano, vinse una bella fortuna. Più tardi comprò un marchesato romano e suo figlio spiccava per eleganza fra i forestieri illustri di Londra. Quei poveri diavoli dei soldati si giocavano tutta la paga quando la prendevano, cioè di rado, e credo che non ci fosse un solo ufficiale in tutti i reggimenti della guardia che non avesse le sue carte in tasca. Era più difficile che dimenticassero la dragona che i dadi. Tra gente così era come volpe contro volpe. Sarebbe stata una follia fare il cosiddetto gioco leale. I gentiluomini di Belly Berry sarebbero stati davvero sciocchi a voler essere colombe in un simile nido di sparvieri. Soltanto uomini di coraggio e di ingegno potevano vivere e prosperare in un mondo dove tutti erano audaci e astuti. E qui mio zio ed io ci mostrammo all'altezza della situazione. Oh sì, e anche più che all'altezza. Sua Altezza il Duca era vedovo, o meglio, dopo la morte della sua duchessa, aveva contratto un matrimonio morganatico con una signora a cui aveva dato lui stesso un titolo nobiliare e che considerava un complimento, tale era la morale dell'epoca, venire chiamata la Duberry del Nord. Si era sposato per la prima volta in giovanissima età, e si può dire che suo figlio, il principe ereditario, fosse il vero sovrano quanto agli affari politici dello Stato. Il duca regnante, infatti, era più amante dei piaceri che della politica e preferiva di gran lunga parlare col suo capocaccia o col direttore dell'opera che con i ministri e ambasciatori. Il principe ereditario, che qui chiamerò principe Victor, era di natura ben diversa dal suo augusto padre. Aveva fatto le guerre di successione e quella dei 7 anni combattendo con grande onore al servizio dell'imperatrice. Aveva un carattere austero, compariva di rado a corte e viveva quasi da solo nella sua ala del palazzo, dedicandosi agli studi più severi da quel grande astronomo e chimico che era. Anche lui aveva l'ossessione, allora diffusa in tutta Europa, di andare a caccia della pietra filosofale. E mio zio rimpiangeva spesso di non avere un'infarinatura di chimica, come Balsamo, che si faceva chiamare Cagliostro, o come Saint-Germain, e molti altri, che che avevano ottenuto dal duca Victor grandi somme per averlo assistito nella ricerca del grande segreto. I suoi soli svaghi erano andare a caccia e passare in rivista le truppe, ma se suo padre, uomo bonario, non avesse avuto lui ad aiutarlo, l'esercito avrebbe giocato a carte tutto il giorno. E dunque era un bene che il governo fosse lasciato alle cure di quel principe prudente. Il duca Victor aveva 50 anni e sua moglie, la principessa Olivia, appena 23. Erano sposati da 7 anni e all'inizio della loro unione la principessa gli aveva dato un figlio e una figlia. La rigida morale del marito, le sue maniere gravi, il suo aspetto cupo e sgraziato difficilmente potevano piacere a questa giovane donna brillante e affascinante che era stata educata nel sud e aveva passato 2 anni a Parigi sotto la tutela delle signore figlie di Sua Maestà Cristianissima, il re di Francia. Era lei, la vita e l'anima della corte di Baviera, la più spensierata tra tutte le donne spensierate, l'idolo del suo augusto suocero, anzi, dell'intera corte. Non era bella, ma piaceva. Non era spiritosa, però continuava a piacere, per la sua conversazione come per la sua persona. Era di una stravaganza senza limiti, tanto falsa che era impossibile fidarsi di lei, ma le sue stesse debolezze erano più affascinanti delle virtù di altre donne, il suo egoismo più delizioso della loro generosità. Non ho mai conosciuto una donna che i difetti rendessero tanto attraente. Aveva l'abitudine di mandare in rovina la gente, eppure tutti l'amavano. Al mio vecchio zio capitò di vederla barare e le lasciò vincere 400 luigi senza opporre la minima resistenza. Con i funzionari e le signore del suo seguito inventava capricci sempre nuovi, ma loro l'adoravano lo stesso. Era il solo membro della famiglia regnante a cui il popolo fosse davvero devoto. Non usciva mai senza che la sua carrozza venisse inseguita da grida d'entusiasmo e lei, per essere generosa con la folla, si faceva prestare fino all'ultimo soldo da qualcuna delle sue povere dame d'onore che non rimborsava mai. Nei primi tempi suo marito, come tutti gli altri, la trovava affascinante, ma i capricci della principessa avevano provocato in lui prima degli spaventosi accessi di collera, poi un raffreddamento dei loro rapporti che, per quanto interrotto da periodi di passione quasi folle, erano ancora la regola. 5 anni nell'esercito e una lunga esperienza del mondo avevano ormai fatto svanire tutte quelle idee romantiche sull'amore con cui mi ero incamminato sul sentiero della vita. Avevo deciso, come si conviene a un gentiluomo, sono solo quelli del popolino a sposarsi per la mera spinta di un sentimento, di consolidare le mie fortune per via matrimoniale. Nel corso delle nostre peregrinazioni, mio zio ed io avevamo fatto diversi tentativi per portare a compimento questo progetto. Ma c'erano state parecchie delusioni, che non vale la pena di ricordare qui, a impedirmi di fare un matrimonio quale ritenevo appropriato per un uomo con sangue, talenti e aspetto fisico pari ai miei. Le signore sul continente non hanno l'abitudine di scappar via con un uomo come si usa in Inghilterra, pratica da cui hanno tratto vantaggio molti onorevoli gentiluomini del mio paese. Intervengono tutori, cerimonie e difficoltà di ogni genere. Non si lascia che il vero amore abbia il suo corso e le povere donne non possono donare il loro purissimo cuore ai giovani galanti che le hanno conquistate. Ora c'era da presentare garanzie. Ora erano il mio albero genealogico e i miei titoli di proprietà che non parevano soddisfacenti, anche se avevo con me la pianta di belli berri e l'elenco delle rendite feudali, nonché la genealogia della mia famiglia elegantemente tracciata su un foglio di carta. Ora era la signorina che veniva frullata via in convento proprio quando stava per cadere tra le mie braccia. Un'altra volta, proprio quando una ricca vedova dei Paesi Bassi stava per farmi signore dei suoi magnifici possedimenti nelle Fiandre, ecco che ti arriva un'ingiunzione della polizia a espellermi da Bruxelles con un'ora di preavviso e a rinchiudere la mia signora e il suo lutto in fondo a un castello. Ma nel Ducato di Baviera ebbi occasione di giocare più in grande e avrei anche vinto se una terribile catastrofe non avesse mandato a monte le mie possibilità di successo. In casa della principessa ereditaria c'era una signorina di 19 anni che possedeva il più grosso patrimonio di tutto il ducato. La contessa Ida, così si chiamava, era figlia di un defunto ministro e favorito del duca e della duchessa di Baviera. Le avevano fatto l'onore di essere suo padrino e madrina e alla morte di suo padre l'avevano presa sotto la loro augusta tutela e protezione. A 16 anni venne portata dal suo castello, dove fino a quel momento le era stato concesso di risiedere, e la misero in casa della principessa Olivia, come una delle damigelle d'onore di Sua Altezza. La zia della contessa Ida, che soprintendeva alla vita domestica durante la sua minore età, aveva scioccamente lasciato che lei si legasse d'affetto per un suo cugino germano, un sottotenente spiantato che serviva in uno dei reggimenti di fanteria del duca e si era presunto capace di accaparrarsi quel ricco premio. Sua Altezza si sarebbe forse lasciato convincere a permettere le nozze se la principessa Olivia non avesse deciso di interporsi, ottenendo dal duca un veto perentorio alle speranze del giovanotto. Era strano che la principessa Olivia avesse preso posizione in questo modo contro una damigella che era stata la sua favorita. All'inizio, infatti, per quelle idee romantiche e sentimentali che quasi tutte le donne hanno, aveva un po' incoraggiato la contessa Ida e il suo innamorato spiantato. Ma ora, d'un tratto, divenne loro nemica. E proprio lei, che fino a quel momento aveva prediletto la contessina, passò a perseguitarla con ogni vessazione che l'odio di una donna sappia infliggere. Non c'era fine alla ricercatezza delle sue torture, al veleno della sua lingua, al fiele del suo sarcasmo e del suo scherno. Quando arrivai per la prima volta alla corte del duca di Baviera, i giovanotti del palazzo avevano battezzato la giovane dama la contessa stupida. In generale era silenziosa, bella, ma pallida, impassibile, impacciata, non prendeva alcun interesse agli svaghi della corte e nel cuore di una festa aveva l'aria tetra, come uno di quei teschi che, si dice, i romani erano soliti tenere sulla tavola. Si mormorava che un giovane gentiluomo di origine francese, il cavalier de Magny, fosse il promesso sposo della ricca contessa Ida. Ma non era stata fatta ancora nessuna dichiarazione ufficiale al proposito e correvano voci di un oscuro intrigo. Voci che ricevettero più tardi una terribile conferma. Questo cavalier de Magny era nipote di un vecchio generale al servizio del duca, il barone de Magny. Era nato in Francia, dove suo padre occupava allora una carica diplomatica al servizio del duca. Si era immerso nella gaia vita mondana della corte più brillante del mondo e aveva un'infinità di storie da raccontarci sui piaceri delle petite maison di Luigi XV e sulle allegre follie di Richelieu e dei suoi compagni. Si era quasi rovinato al gioco, come suo padre prima di lui, perché una volta fuori portata dal severo vecchio barone, rimasto in Germania, figlio e nipote si erano dati alla vita più sfrenata. Era tornato da Parigi poco dopo l'ambasciata inviata là per il matrimonio della principessa, e il vecchio nonno, pur ricevendolo freddamente, pagò ancora una volta i suoi debiti e gli procurò il posto in casa del duca. Il cavalier de Magny riuscì a divenire presto un grande favorito del suo augusto signore. Portava con sé le mode e l'allegria di Parigi, era l'ideatore di tutte le mascherate e i balli, il reclutatore delle ballerine e di gran lunga il giovane gentiluomo più brillante e più in vista della corte. L'amore del gioco non l'aveva certo abbandonato. Frequentava regolarmente il nostro banco. Per qualche tempo giocò con discreta fortuna e quando cominciò a perdere pagava i debiti con una puntualità che stupì tutti quelli che conoscevano la scarsità dei suoi mezzi e la confrontavano con la sua splendida apparenza.